ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Ma buongiorno, che bello, io sono tutto vestito di colori diversi, ecco. Non mi vedete perché siamo dei radiomangiatori oltre che radioraccoglitori. Diremmo i sacchetti dell'amica, esatto, di Donegani, ecco. Esatto, che è stata veramente bravissima. Diceva in un film di Totò, quando non c'è queste cose, desisti. E quindi noi diciamo, quando non ci sono questa denominazione, questi marchi, desistete. Chiacchiere domenicali alla tavola della bufala in tavola. Buongiorno, buona domenica. Accomodatevi, restate con l'amico, estate. I tempi si allungano, i ritmi diventano meno pressanti, la luce, il sole ci mettono di buon umore ed è piacevole uscire dalla routine concedendosi piccole e salutari trasgressioni anche a tavola. L'estate è anche questo. Ci siete tutti? Accomodatevi, allora possiamo dare il benvenuto alla professoressa Gwendalina Graffigna, che si siede con noi questa domenica alla tavola della bufala in tavola. La conoscete bene, ma la presento adeguatamente: ordinario di psicologia all'Università Cattolica di Milano, direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica, che come sapete ci ha accompagnato in queste ultime settimane per attrezzarci ad avere tutte le competenze necessarie per affrontare una nuova quotidianità. Professoressa Graffigna, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti, buona domenica, ben ritrovati. E abbiamo ancora bisogno di lei, perché? Perché per fortuna è arrivata l'estate, è scoppiata l'estate, la nostra routine, la nostra quotidianità cambia, abbiamo voglia di esplorare nuovi luoghi, incontrare nuove persone, anche voglia di sentirci un po' liberi tutti, e tutto questo porta a essere un pochino meno attenti. Ci piace trasgredire un po', che dice? Esattamente, ecco. Sì, è così, ma è anche sano, se vogliamo. L'importante poi non eccedere e riuscire comunque a mantenere un buon equilibrio. Io penso che per tutti noi il periodo delle vacanze voglia anche dire evasione, ed evasione, se vogliamo, anche dal nostro, quello che noi psicologi chiamiamo il superio, quindi quella parte di noi che ci ricorda le regole e che ci aiuta a essere ligi alla dieta piuttosto che alle regole che ci sono state date. Per cui da una parte è sicuramente salutare avere la capacità di flessibilità, quindi anche la capacità di prendersi un po' di fiato anche mentale e psicologico dalle regole imposte dagli altri o anche autoimposte. Certo, però come sta nella flessibilità di cui abbiamo già parlato, l'importante è poi riuscire a rimettersi in carreggiata e non eccedere. Lei mi parla di flessibilità, allora mi scusi, la interrompo per approfittare e per ricordare le amiche e gli amici che ci stanno seguendo che noi abbiamo tutti gli esercizi che abbiamo fatto durante queste settimane e insieme al team della professoressa Graffigna le trovate sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, e quindi anche un allenamento a essere più flessibili e quindi ad affrontare il ritmo dell'estate che ci spinge a trasgredire, ma senza tanti sensi di colpa. Tra l'altro, professoressa Graffigna, vacanze, cibo, convivialità, è vero che mangiare in compagnia fa bene alla salute? Noi ci riuniamo tutte le domeniche alla bufala in tavola, ma l'estate è proprio una stagione in cui si ha piacere di invitare gli amici, fare delle belle tavolate, anche se adeguatamente distanziati, e questo lo diciamo sempre tutto, tavolate lunghe in modo che siamo tutti ben distanziati, ma il distanziamento fisico non significa distanziamento sociale. Assolutamente. La convivialità è un elemento fondante della nostra tradizione culturale italiana alimentare, della nostra dieta mediterranea, perché da psicologa posso dire che le caratteristiche proprio salutari della dieta mediterranea non sono soltanto ovviamente le caratteristiche nutrizionali dei piatti che di solito prepariamo, ma anche il modo con cui di solito li consumiamo, cioè la calma, la capacità di gustare il momento del pranzo e della cena. E sicuramente è stato visto, studiato, addirittura dimostrato da degli studi scientifici che il poter indulgere in questi momenti di pranzo e di cena anche con delle persone care, con degli amici, aumenta la positività del momento e quindi ha un impatto positivo sulla salute psicologica e mentale. Indubbiamente il mangiare in una situazione di convivialità è anche un fattore preventivo rispetto a, per esempio, a buffate piuttosto che comportamenti quasi compulsivi nell'alimentazione. Io direi che è molto più rischioso, e quindi anche da fare attenzione se ci capita, quando ci troviamo da soli a buffarci o a mangiare, che quasi diventa un modo per compensare la solitudine, la mancanza di avere delle altre persone che ci possono accompagnare in momenti di vita importanti. Professoressa Graffigna, l'importante è trasgredire con consapevolezza, in modo sereno, senza sensi di colpa, perché sennò professoressa Graffigna, dove andiamo a finire? Se mi concedo una cosa e poi dico perché l'ho fatto, quando mai, ecco perché, e allora cosa vorrà dire, quanto mi costerà? Esatto, io penso che non dobbiamo confondere tra la consapevolezza di aver trasgredito alle regole, è importante saperlo, e poi il senso di colpa, perché il senso di colpa è sostanzialmente un rimorso e ci porta a rimanere ancorati a quell'emozione negativa, a quel comportamento negativo, a quel pensiero negativo. Talvolta il senso di colpa ci porta a ripetere quel comportamento negativo, mentre la capacità di avere una consapevolezza, riconoscere l'eventuale trasgressione alimentare, ma anche la capacità di riconoscere poi la propria competenza per ritornare sulla giusta traiettoria alimentare, è quello che invece ci garantisce appunto la possibilità di essere flessibile, come dicevo prima. Quindi attenzione, il senso di colpa rischia poi di farci ripetere l'errore o di ancorarci troppo a quell'errore. Ha qualche esercizietto? Sono certa che ha preparato un esercizietto per noi, perché i prof danno sempre i compiti. Anche allora, in estate. Il compito che vi do è quello di non mangiare le emozioni, o perlomeno di decidere consapevolmente quando mangiare le emozioni. Dobbiamo un po' distinguere quando ci alimentiamo tra nutrizione, gusto ed emozione. Allora, nutrizione è facile, poi ne parlano i nutrizionisti e non io, è quello che è il fattore appunto nutritivo dell'alimentazione che va a colmare il nostro bisogno fisiologico. Il gusto è sicuramente la ricerca della piacevolezza, anche certo, dovuta alla situazione, ma l'importante è l'emozione, perché c'è sempre un quid di emozionalità che ci porta a scegliere quell'alimento, può essere un'emozione positiva o un'emozione negativa. Ecco, l'esercizio è: provate a riconoscere qual è l'emozione che ci spinge a consumare quel tipo di alimento. Talvolta le emozioni sono quelle che ci portano in scacco e appunto a reiterare dei consumi che poi per la nostra salute possono essere problematici. Se invece riusciamo bene a essere consapevoli, a identificare il fattore emotivo che porta a determinare la nostra scelta alimentare, ecco che almeno quella parte riusciamo a gestirla meglio ed essere vittime meno di un comportamento di consumo alimentare più impulsivo, più anche ripetitivo e talvolta sbagliato. Professoressa, ci mettiamo subito alla prova, ci sediamo a tavola. Grazie prof, buona giornata. Grazie e buona domenica. Grazie a voi, buon pranzo, buona tavola, arrivederci. La bufala in tavola. Prendere posto anche ballando un po', non vi viene da ballare? Bellissimo, allora dai, sediamoci. Se mangiare in compagnia fa bene, stiamo insieme. Se trasgredire lecito si può, dai, questo è il nostro momento. E alla tavola della bufala in tavola arrivano altri amici. La dottoressa Stefania Ruggeri, buongiorno, si accomodi a capotavola. Benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Nutrizionista, ricercatrice del CREA, Alimenti e Nutrizione, e autrice di Mamma che fame! Sì, abbiamo molta fame, soprattutto a quest'ora. E dall'altro capo del tavolo, sempre a capotavola, mettiamo il professor Lelio Morricone, che è tornato a trovarci. Prof, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Responsabile del servizio di nutrizione clinica all'Istituto Clinico Sant'Ambrogio di Milano, gruppo San Donato. Ha fame, appetito, professor Morricone? Ma sì, abbastanza. Dai. Diciamo il giusto equilibrio. L'appetito è sempre un segnale positivo, mai negativo, non va interpretato in senso sfavorevole. Bene, allora siete pronti? Perché ognuno di voi ci presenterà il suo piatto dell'estate. E di ciascun piatto diremo, ci direte, che cosa possiamo prendere di buono. Insomma, analizzeremo, prenderemo in esame quelli che sono i piatti che incontriamo e ci fanno venire l'acquolina in bocca, specie in estate, e cercheremo di capirci di più. Siete pronti? Prontissimo. Tra l'altro, e a proposito di trasgressioni a tavola, dottoressa Ruggeri, professor Morricone, hanno anche il loro perché. La professoressa Graffigna ci ha spiegato quanto e come impattano dal punto di vista emozionale. Per chi si occupa invece di nutrizione e alimentazione, professor Morricone, approva le trasgressioni? Ma io direi di sì, anche perché se fatte in modo equilibrato consentono di variare quello che sono le nostre, i cibi di cui noi ci nutriamo, e quindi variare è sempre una cosa molto positiva, assortire gli alimenti è una cosa molto positiva, ed evitare sempre di mangiare le stesse cose è una cosa molto positiva, quindi la trasgressione ci aiuta anche in questo senso. Allora, abbiamo il placet del professor Morricone, c'è un rinforzo da parte della dottoressa Ruggeri? Sì Nicoletta, io volevo aggiungere che se noi durante la nostra settimana o durante le nostre, insomma, giornate alimentari seguiamo un'alimentazione sana, equilibrata e, diciamo, magari siamo anche un po' attenti alle calorie e facciamo attività fisica, ovviamente quella che noi chiamiamo trasgressione non lo diventa più, perché praticamente, insomma, diventa un rafforzo di qualche caloria in più in un partner alimentare che è completamente sano ed equilibrato. Quindi direi che, insomma, la trasgressione sicuramente ci può aiutare anche a riprendere il contatto, insomma, al piacere del cibo, e quindi anche a pensare che non dobbiamo stare sempre a dieta. Bravi, ci piace. Allora, professor Morricone, cosa ci ha portato? Ma io, diciamo, come prima idea mi piacerebbe rifarmi ad un piatto della tradizione siciliana che era stato una volta indicato come l'emblema, diciamo, del raccogliere in sé tutti i dettami della dieta mediterranea e gli equilibri propri della dieta mediterranea. Mi riferisco alla famosa pasta con le sarde, che immagino molti degli ascoltatori conosceranno. Certo, è un piatto profumatissimo. Siciliano molto profumato e che raccoglie una serie di elementi fondamentali, naturalmente la pasta, quindi una base di carboidrati complessi, non dimentichiamoci mai che i carboidrati devono rappresentare tra il 50 e il 60% delle calorie totali ingerite, quindi un piatto di pasta non è certo una cosa né sbagliata né negativa, ma insieme alla pasta c'è il pesce, cioè la sarda, e il pesce, come tutti sanno ormai, è elemento sempre fortissimamente raccomandato per una dieta equilibrata, apporta gli omega 3, apporta quindi acidi grassi buoni, di qualità. Ma poi c'è il finocchietto selvatico, quindi ecco qui, aggiungiamo la fibra, aggiungiamo quello che ci viene dal mondo vegetale, oltre ad avere un'enorme capacità, diciamo, di profumare e di insaporire, la qualcosa ci aiuta di per sé a ridurre il sale, che è un'altra cosa importante. E poi nelle varie, diciamo, sfaccettature di questo piatto, che viene fatto a seconda delle zone in modo un po' diverso, ma per esempio ci sono i pinoli, quindi c'è un pochino di frutta secca. Vedete come un piatto può raccogliere in sé tutto ciò che occorre prevedere in un'alimentazione equilibrata, quindi i carboidrati complessi come base, il pesce, la verdura, la fibra in questo caso, gli aromi per ridurre il sale e naturalmente un pochino di olio extravergine d'oliva. Professor Morricone, quale spunto possiamo prendere da questo piatto e per trasferirlo nella nostra alimentazione settimanale? Che cosa ci insegna di buono questo piatto? Ci mangiamo un bel piatto con le sarde e diciamo: guarda, ho sentito che questo è proprio l'emblema della dieta mediterranea, c'è tutto, tra l'altro sarde, pesce azzurro, pesce grasso, grassi buoni e poi esquisita. Certo. Benissimo, guarda bravo. Aggiungerei, Nicoletto, un'altra cosa che noi raccomandiamo sempre quando si cerca di raggiungere un obiettivo di alimentazione equilibrato: la stagionalità. Bravo. Quindi questo è un piatto che va molto bene in questo periodo, perché la sarda è per esempio un pesce che conviene pescare, quindi utilizzare sostanzialmente da marzo a settembre, e non poi è un piatto per tutto l'anno. E poi con Laura proprio ieri leggevamo la stagione perfetta per il finocchietto selvatico è proprio l'estate. Allora, esatto, che cosa ci acchiappiamo? Che cosa ci prendiamo di questo piatto per trasferirlo un po' nelle nostre abitudini? Cosa impariamo di buono? Ma impariamo appunto che si può per esempio il piacere di fare il piatto unico, che è un'abitudine che secondo me deve essere incoraggiata, perché riusciamo in uno stesso piatto a mettere la quota giusta di carboidrati, proteine di qualità, che in questo caso derivano dal pesce, olio extravergine d'oliva e fibra. Quindi il piatto unico aiuta ad avere proprio la concezione dell'alimentazione equilibrata, sazia, in questo caso devo dire gratifica molto le papille gustative, perché questo ci piace, per me è molto molto gustosa. E poi ci consente magari di terminare il pasto con un'insalata e un frutto senza bisogno di incrementare eccessivamente la quota, certo, proteica e soprattutto senza aumentare felici, la quota lipidica. Felici, nutriti e appagati. Chissà che cosa ha preparato la dottoressa Ruggeri per noi. Beh, perché competere con un bel piatto di pasta con le sarde, la vedo dura. Certo, è molto molto difficile, Nicoletta, però io sono stata un po' più trasgressiva rispetto al professore, e poiché io sono amante del mare e anche delle cene davanti ai tramonti, io proporrei e rivaluterei il fritto misto di mare. Wow. Raccontando come questo è un colpo, professor Morricone, fritto misto. Bene, bene, ottimo. Sento già il profumo. Sentiamo già. Dottoressa Ruggeri, qua lei ci conquista. Se ci dice che ci mangiamo il fritto misto, ci fa bene, possiamo mangiarlo, anzi, meno male che l'abbiamo mangiato, diventa la nostra beniamina. Allora, i punti di forza, noi tutti insomma siamo terrorizzati insomma dal fritto, no? Dalla frittura, tant'è vero che insomma nelle diete spesso è insomma negata o comunque suggerita raramente. Dobbiamo dire che adesso insomma un po' anche si sta rivalutando, perché in realtà soprattutto quando parliamo di una frittura di pesce e soprattutto di una frittura di pesce misto, le proprietà nutrizionali sono veramente tante. Naturalmente qui dobbiamo sempre pensare che il fritto deve essere fatto a regola d'arte, poi magari lo diremo. Sì. In una frittura mista noi cosa troviamo? Possiamo trovare le alici fritte, che se consumate con la lisca, non so se i radioascoltatori lo sanno, ma sono molto ricche di calcio e quindi sono anche apportatrici di un minerale importante, oltre che dei insomma già conosciuti omega 3. E poi possiamo mettere insomma i gamberi, no? Ci sono ovviamente dei gamberi e il loro carapace, lo mangiamo diciamo interi con la frittura, è molto ricco di una sostanza che ha un nome un po' difficile, si chiama l'astaxantina, che in realtà è fa parte del precursore della vitamina A e quindi aiuta anche in questo periodo dell'esposizione al sole a proteggere la nostra pelle. E poi naturalmente insomma pesci anche più leggeri, perché insomma nella frittura mista insomma ci possono essere i merluzzetti, insomma possiamo veramente godere di un piatto che ha un buon contenuto di proteine. basse calorie. In realtà, se la frittura è fatta bene, l'apporto calorico non è così elevato, perché insomma adesso racconteremo che se l'olio, diciamo, è ben caldo, viene fritta bene con un'adeguata, diciamo, panatura, effettivamente le calorie non sono tante. La frittura mantiene anche le proprietà nutrizionali, è stato visto che per esempio tra le tecniche è quella tra le più conservative, perché il calore si trasferisce soltanto all'esterno dell'alimento e non arriva fino, diciamo, al centro, quindi meglio un pesce fritto che un pesce bollito, per dire, insomma, farci capire. E naturalmente contenuto di proteine buono, e poi senza dimenticare che comunque è un piatto molto appagante, no? Quindi ha una, diciamo, guardi, un, mi viene già la acquolina in bocca di a pensare. Felicità. Non posso mangiarle tutte e due piatte, la pasta con le sarde, io sono per metà sicula e il fritto misto, un po' troppo. Direi di no, direi di no. Mezza porzione, mezza porzione. Mezza e mezza. Dai. Mezza e mezza, e poi accompagnato ovviamente sempre, insomma, con una verdura a piacere, diventa anche questo, diciamo, un piatto non è completo perché manca delle parti di carboidrati, però direi, insomma, che è appagante, quindi magari ripenseremo alla nostra quota di carboidrati in un'altra pasta della giornata, quindi soddisfiamoci. Allora, così la dottoressa Ruggeri pronta per svelarci i segreti, c'è Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, affamato, Laura Vanossi in redazione. Ci fermiamo e ritorniamo. La bufala in tavola. Trasgredire con gioia. Alla tavola della bufala in tavola ne stiamo parlando con la dottoressa Ruggeri, il professor Morricone. Dottoressa Ruggeri, con lei abbiamo parlato di fritto misto di pesce. Ce ne ha decantato anche le virtù nutrizionali. Attenzione, mangiamo le lische, mangiamo anche il gambero con il suo carrapacino, e la bronzatura ci guadagna. Questa è troppo tirata, ma insomma, dottoressa Ruggeri, me la passi. Intanto, non è un piatto così trasgressivo, ci ha spiegato la dottoressa Ruggeri, a patto che la frittura sia fatta per bene. Come, dottoressa Ruggeri, a cosa devo fare attenzione? Allora, dobbiamo stare attenti assolutamente, per prima cosa, all'olio, che deve essere sempre ben caldo. I nostri pesciolini vanno prima raffreddati per circa 10 minuti in frigorifero, e così da creare uno shock termico, e verrà assorbito meno olio durante la frittura. L'ultimo consiglio che voglio dare è una, diciamo, un suggerimento per la panatura che ho proprio sperimentato a casa. E nel mio libro è riportato questo, diciamo, un piatto che si chiama il Mummy Fish and Chips, e dove la panatura del pesce viene fatta con della polenta, con della farina di mais. Sì. Questa farina, infatti, essendo meno, diciamo, meno porosa rispetto alla farina tradizionale, fa assorbire meno olio alla nostra frittura e il pesce sarà anche più croccante. Fantastico, meno male, mamma che fame, è vero. Professor Morricone, è un osso duro questa dottoressa Ruggeri, eh? Lei cosa ci porta d'alto? Attenzione. È un diavolo tentatrice, ma anche il professor Morricone, oltre a essere come un medico specialista in tutto quello che riguarda la nutrizione e l'alimentazione, è anche un ottimo cuoco, l'abbiamo scoperto di puntata in puntata. Professor Morricone, che cosa ci porta? Ma io direi, siamo stati al mare e andiamo in montagna, che comunque d'estate è la meta di di noi. Certo. E mi piacerebbe citare un piatto della tradizione, soprattutto valtellinese, i pizzoccheri, che sono fatti con a base di tagliatelle o gnocchetti nella zona del Chiavennasca, a base di grano saraceno. Il grano saraceno è uno pseudo cereale che ha molte proprietà, non contiene glutine, ha un eccellente assortimento di aminoacidi essenziali, apporta oligoelementi e quindi è una base ottima per poter poi fare questo piatto, che naturalmente è una vera trasgressione quando lo si considera nella sua ricetta originale, quindi con burro, salvia, aglio, molto formaggio e poi ovviamente la componente vegetale, le patate e la verza. Però diciamo che, siccome stiamo parlando di trasgressioni, io credo che magari poi, smantendolo con una bella passeggiata in quota, la cosa potrebbe essere. Quindi pizzocchero e poi su per buttarlo giù. Esatto. Dottoressa Ruggeri. Allora, io invece ritorno al mare e propongo come piatto dove la salute e il gusto si uniscono la calamarata, che nella ricetta tradizionale napoletana prevede l'uso ovviamente della pasta diciamo di grano duro. Io suggerirei, per renderla più salutare, di utilizzare della pasta integrale in modo da avere un abbassato indice glicemico, sempre del pesce, calamari, anche questi diciamo ricchi ovviamente di, come pesce di grassi omega 3, e anche questi ricchi di calcio, e poi il pomodoro cotto, insomma pomodorini schiacciati che sono di stagione, molto ricchi di licopene. Quindi direi insomma che il piatto che sicuramente a fine giornata, soprattutto se abbiamo fatto delle belle nuotate, delle belle passeggiate al mare, ci possiamo concedere. Mi piace, ma sono bravi i due, siete una bellissima coppia. Perché non venite più spesso? Ma portate, adesso che incontriamoci con qualche cosa di buono e di sostanzioso. Buona estate alla dottoressa Ruggeri, buona estate al professor Morricone, grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie, un saluto a tutti. E molte volte anche i piccoli trasgrediscono, e si sa, certo, il gelatino in più, la bibita e poi la focaccina, la pizzetta e quant'altro. E in linea con noi per aiutare anche i genitori a permettere salutari trasgressioni senza naturalmente esagerare, abbiamo un grande esperto, il professor Alberto Villani, che è tornato a trovarci, presidente della Società Italiana di Pediatria e primario di Pediatria Generale Malattia Infettiva al Bambino Gesù di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, siamo stati piccoli tutti. L'estate il bambino viene soddisfatto nelle sue richieste. Mamma, posso mangiare un altro gelatino? Dai, piccolo. Mamma, la focaccina? Dai, ancora. Ma non ne hai già mangiato una? Ma dai, ancora metà. Ecco, alla fine poi i genitori hanno un po' il timore di esagerare, perché noi sappiamo che i nostri bambini sono tra i più cicciottelli d'Europa. Professor Villani, ci aiuti lei? Ha detto bene lei, l'importante è avere nella quotidianità delle regole da rispettare, che nel caso di tutti e dei bambini in modo particolare sono un'assunzione regolare dei pasti, quindi evitare fuori pasto, quindi fare colazione, pranzo, merenda e cena, e avere un'alimentazione che sia varia, ispirandoci sempre al modello della dieta mediterranea. Questo chiaramente consente la possibilità, soprattutto in vacanza, di tanto in tanto occasionalmente concedere delle piccole variazioni. Quindi se il gelato va a costituire la merenda, ben venga, oltretutto il gelato è un alimento sano. Se occasionalmente viene concessa una leccornia, può essere fatto. Quello che è importante che sia chiaro che è un qualcosa di eccezionale e non può poi divenire una regola. Quindi il gelatino, anche diciamo in più del dovuto, occasionalmente può essere concesso. Se questa diventa un'abitudine che poi si trascina, questo assolutamente non va bene e diventerebbe poi un'abitudine viziata. Quindi l'importante è, come sempre, agire con buon senso. E poi anche per i nostri bambini dieta varia ed equilibrata. In realtà, professor Villani, lei lo sa bene che alcuni bambini invece hanno una dieta molto monotona, ripetitiva. Sono i bambini che magari sono un po' inappetenti, gracilini, non amano sperimentare e richiedono sempre alla mamma di preparare gli stessi piatti, perché sennò il bambino non mi mangia. E quindi quelli più gettonati sono pasta al pomodoro, la milanese con le patatine, la pizza. Professore, alla lunga tutto questo non aiuta. Le posso fare i complimenti, perché lei ha adoperato la frase magica: non mi mangia, come se l'alimentazione del bambino fosse un qualcosa che in realtà fa parte di questa unità inscindibile mamma-figlio. Quello che bisogna comprendere è che in Italia come problema abbiamo quello dell'obesità infantile. Io ricordo sempre alle mamme di essere contente per ciò che i bambini non mangiano. Sulle diete restrittive, cioè quelle che poi nel tempo arrivano a essere, e lei le ha descritte perfettamente, ma talvolta si arriva proprio alla pasta scondita, quindi veramente a delle cose che sono improponibili, ci si arriva nel tempo restringendo progressivamente. Allora è molto importante mantenere l'apertura a tutti i gusti, far sì che il bambino si abitui alla bellezza della diversità dei cibi, dei colori e dei sapori, e se questo lo si riesce a instaurare viene poi ben accettato dai bambini. È chiaro che questo richiede impegno, ma ci si può arrivare, quindi bisogna stare attenti a non restringere la dieta, perché poi tornare indietro è veramente difficile, quindi non arrivare ad avere una dieta selettiva. Professor Villani, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona domenica e anche delle buone vacanze quando arriveranno. Grazie anche a voi, agli ascoltatori, e complimenti per la bella trasmissione. Grazie, buona giornata e buona domenica. Bene, allora i bambini li abbiamo sistemati, adesso chi manca? Fate posto, ci serve più di una seggiola, due, direi che potremmo dire una poltrona per due, perché in linea con noi, pronti ad accomodarsi la tavola della bufala in tavola, il maestro Beppe Vessicchio. Maestro, buongiorno. Ma questa è una buongiorno. Cosa magnifica, io sono troppo felice. Che è accompagnato da una nostra conoscenza, il professor Michele Scognamiglio. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti, un saluto particolare al mio fraterno amico Peppe, grazie sempre per il vostro graditissimo invito. Specialista, Michele, buongiorno. Specialista in scienza dell'alimentazione all'Università Luigi Vanvitelli di Napoli. Professor Scognamiglio, parto da lei. Oggi parliamo di trasgressione, del piatto dell'estate che ci fa un po' sognare e diciamo adesso che vado in vacanza non vedo l'ora di mangiarmi una frittura di alici. Ah, fantastico, abbiamo parlato proprio di frittura mista, lei invece è più dettagliata. Frittura di alici, solo alici, con l'isca? Necessariamente. Perché è nella sua interezza che l'alice dà il meglio, ecco, se cominciamo a toglierci delle parti le priviamo di importanti contributi nutrizionali. Quindi si spolvera, come si dice, cioè non si lascia nulla nel piatto, nulla. Passo subito al maestro. Maestro, per lei il suo piatto della trasgressione? Ma io sono in campagna, per me vale la pizza fritta in questo senso. La pizza fritta con la ricotta dentro, cioè il calzoncino con la ricotta, che faccio da me ovviamente, perché rigorosamente deve essere impastato dalle mie mani. Questo veramente? Sì. È una va, musica, verrebbe da dire, quanto è buono. Devo dire che quando è buono anche a me dà l'idea di essere armonico, insomma, che tutte le cose sono andate nella maniera giusta. E lei impasta proprio, impasta... Sì, impasto con le mani, doverosamente con le mani, perché io ho la sensazione che quando ci metto io le mani siano l'impasto sia diverso, e quindi a questo punto si fanno tutti da parte e lasciano che io lo faccia. Oh, che bellezza, quando viene su a Milano io le faccio trovare tutto a disposizione e andiamo. Ma lo farò con grande piacere. Naturalmente ci portiamo anche il professor Scognamiglio, per carità, certo. Perché ci ha fatto incontrare, conoscere, ma adesso ci fermiamo e riprendiamo subito dopo con i nostri due amici. La bufala in tavola. Riprendiamo il passo con Rita Pavone, che ci dà un suggerimento, un'indicazione. Perché? Perché insieme al professor Scognamiglio e al maestro Beppe Vessicchio oggi portiamo a tavola il principe. Professor Scognamiglio, se io le dico principe, lei a che cosa pensa? Penso al pomodoro. Eccolo lì. Poi voi siete campani e poi è veramente il principe della dieta mediterranea. Ci faccia un po' la carta d'identità del pomodoro. Allora, cominciamo col dire che la famiglia del pomodoro è una famiglia veramente allargata, la famiglia delle solanacee, che include circa 3.000 diverse specie botaniche. Quelle di interesse alimentare nell'ambito delle solanacee, oltre ai pomodori, troviamo le melanzane, troviamo i peperoni, troviamo le patate, le bacche di goji, i peperoncini, ma troviamo anche delle piante dalle spiccate proprietà medicamentose, come la belladonna, la mandragora, lo stramonio e così via, ma anche specie di interesse floreale come ad esempio le petunie. Ora, rimanendo alle quindi solanacee, petunie e pomodoro sono un po' cugini? Sono cugini stretti, diciamo, da un punto di vista botanico. Sono... Ho capito. Da un punto di vista alimentare, rimanendo a quelli di interesse alimentare, quindi peperoni, melanzane, patate, pomodori, diciamo, pur nella loro diversità, sono differenti per forme, dimensioni, per colori, però diciamo sono accomunati da importantissime proprietà nutrizionali. Rimanendo al pomodoro, diciamo subito che è quasi un alimento acalorico. 100 grammi di pomodoro apportano non più di 20 calorie, essendo costituito per oltre il 95% da acqua, un contenuto trascurabile di grassi, un contenuto minimo di proteine e un contenuto piuttosto basso di zuccheri, tra cui anche importanti fibre. Le proprietà nutrizionali più importanti del pomodoro, estremamente sintetizzandolo, è che quindi è un alimento rinfrescante, idratante, è un alimento rimineralizzante. 100 grammi di pomodoro apportano più di 200 mg di potassio. E qua che, un minuto me lo devi concedere perché... potassio in estate ci aiuta. Bravissima, ma soprattutto essendo molto affine da un punto di vista chimico al sodio, è in grado di mimarne gli effetti senza apportare la tossicità del sodio, perché il sodio è l'unico elemento chimico che noi introduciamo in quantità superiori al nostro fabbisogno e il potassio può contrastare la nocività del sodio, ok? Poi un altro aspetto pure molto importante è che contiene tutta una serie di acidi organici come l'acido citrico, l'acido malico, che pur essendo chimicamente acidi, nel nostro organismo si rivelano alcalinizzanti, quindi contrasta paradossalmente l'acidità che possiamo avere nel nostro organismo. Inoltre il suo carattere acidulo stimola le secrezioni gastriche, quindi favorisce la digestione, l'assimilazione del cibo, ma poi è un alimento vitaminico. 200 grammi di pomodoro sono in grado di garantire il fabbisogno giornaliero di vitamina C, come se non bastasse, vi sono quantità estremamente importanti di vitamina B6, di acido folico, di vitamina E e poi tutta una serie di straordinari antiossidanti, compresi i flavonoidi, i carotenoidi, ma soprattutto il licopene, il responsabile del colore rosso del pomodoro maturo, la luteina per la salute dell'occhio, molto importante per prevenire malattie a carico oculare. Quindi veramente a fronte di una... Mamma mia, io ho detto principe, ma è poco definirlo principe. Mi mette anche un po' di soggezione adesso che so tutto quello che il pomodoro sa essere e sa fare. Maestro... lei ha una passione per il pomodoro, ci vuole svelare la ragione? ma la ragione vuol dire che soprattutto da bimbo noi in campagna, insomma, abbiamo partecipato a quella che era la conservazione del pomodoro per l'inverno, quindi eravamo costretti a sacrificare una giornata estiva delle nostre vacanze per dare una mano in famiglia a fare le famose bottiglie. Era con il caldo che faceva, le lascio immaginare, per noi era una tortura. Poi però quante guardare, risate immagino, esatto, maestro, mamma perché, mia, perché? che tempi, e tra l'altro che bontà il ricordo di questa conserva e quanta unione generava comunque nella famiglia, al di là di, diciamo, di queste piccole posizioni personali dell'adolescente che vorrebbe fare altro. Il pomodoro è stato presentissimo nella mia vita, lo è stato anche quando da musicista ho cominciato a sperimentare il potere dell'armonia sulle piante, sugli alimenti, quindi è stato uno dei primi testimoni, io così lo chiamo, delle mie sperimentazioni. E poi ma che musica gli faceva ascoltare i pomodori? Ma io sono partito con Mozart perché in effetti era quello che dagli studiosi di varie università veniva indicato come il musicista che offriva più risultati come modificatore dei sistemi biologici. Quindi ho pensato di cominciare con lui e poi le cose sono evolute, perché da musicista ho cominciato a studiare ovviamente quella musica, o a cercare di capire quali fossero gli elementi di quella musica in grado di colloquiare con gli organismi biologici. Alla fine, guardi, la sintesi, perché sarebbe complicato spiegarne musicalmente le ragioni, ma possiamo dire che il concetto di armonia, è una parola che viene usata in musica, è un concetto che si addice a qualunque insieme complesso. Un insieme complesso che non è in armonia vuol dire un insieme sofferente sicuramente, ma questo sia in ambito familiare, voglio dire che in ambito naturale. Le piante, se non trovano armonia tra loro, con il suolo e con tutto il sistema che li circonda, vuol dire non saranno nelle condizioni di offrire il meglio. E questo vale un po' per tutto, per cui ho scoperto che i principi che regolano il mondo armonico musicale in qualche modo traslati si addicono a tutto l'universo che ci circonda, le ciclicità della musica che, voglio dire, se possono essere perfette, lo devono essere non del tutto ma quasi, come l'ellisse invece che il circolo con il quale i pianeti ruotano intorno ai loro astri. Questo è, per esempio, è meraviglioso. Il pomodoro è stato il primo rivelatore di questa condizione, perché è quello che mi ha dato risposte diciamo abbastanza evidenti. Io amo i pomodori da campano, me lo lasci dire, siamo insieme a, penso agli emiliani, coloro che hanno veramente si sono, come dire, sono fatti in quattro per coltivarlo e acquisire anche competenza. Abbiamo mi pare una sessantina di tipologie diverse di pomodori in Campania, siamo ricchissimi di qualità di pomodoro, ed è bello che ogni territorio reclama il suo pomodoro con le sue qualità. Questa biodiversità ci fa onore e rende la nostra terra importante, unica, meravigliosa. E poi anche il nome pomodoro, c'è già tutto lì. Professor Scognamiglio, vari tipi di pomodoro? Sempre noi suggeriamo agli esperti che vengono alla Bufala in Tavola di rispettare la stagionalità. Questa è la sua stagione, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Ci certo. Vuole dare qualche sfizietto in più proprio per voler esagerare? Faremo un torto a tutte le cultivar, purché si mangino pomodori nel rispetto della stagionalità, perché Nicoletta ricorda che la stagionalità ci dà non solo l'opportunità di disporre di vegetali nel momento della loro migliore composizione chimica, certo, ma la stagionalità ci dà anche un altro enorme vantaggio che noi a volte dimentichiamo, perché ci permette di poter disporre di alimenti il cui nutrienti sono quelli di cui noi più abbisogniamo in questo dato momento. E torna all'armonia. Maestro, se il pomodoro fosse... Me lo lasci fare, lo so che è banale, ma mi piace. Se i pomodori fossero una musica... Ma io direi un classico, nel senso laddove la parola classico significa esemplare. È tutto ciò che riesce a proiettarsi come una forma di esempio per gli altri. Il pomodoro l'abbiamo importato e, come vediamo, è il simbolo della nostra gastronomia in tutto il mondo, quindi è esemplare anche di come gli uomini lo hanno lavorato. Vuoi che sia un classico della musica leggera, come possa essere Il cielo in una stanza, così come può essere Il bolero di Ravel. Mi piacciono entrambe, tra l'altro. Maestro, grazie per essere stato con noi. Grazie al professor Scognamiglio. Grazie a voi. A Carmelo, Lauricella, che ho già salutato, ma risaluto a Laura Vanossi. E noi ci sentiamo domani, 6:15. Buona giornata. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Suoruba.it